diciamo, della crescita civile, occupazionale ed economica all'UNICAL. La firma della convenzione da parte del rettore Giovanni Latorre, il presidente della Fondazione Santa Barbara, è stata posta il 7 maggio. Questo accordo prevede lo sviluppo di una lunga serie di attività che vanno dall'ideazione di campagne di sensibilizzazione del patrimonio artistico fino alla realizzazione e gestione di corsi di formazione professionale dedicati, diciamo, alla salvaguardia dei territori del patrimonio artistico calabrese. A quanto pare qua tutte queste cose sono molto positive, no? Se uno le sente così nominare. Però la cosa che, diciamo, potrebbe fare un po' di acqua è il fatto che spesso e volentieri molti progetti partiti dall'UNICAL, per esempio, no? Tanti progetti, Samuele, lo vuoi dire tu? Sì, sì, io sono quello che fa i progetti e anche io, vivendo all'UNICAL, naturalmente vivendo all'università sto finanziando diverse magagne, diverse costruzioni che all'interno dell'università, che all'interno di Cosenza non solo cresceranno. E volevo ringraziare, dato che mi è stata data la parola, anche le varie associazioni Onlus o presunte tali, che grazie a loro si spartiranno gli eventuali e probabilissimi finanziamenti europei, pubblici, eccetera, eccetera. Grazie UNICAL di essere ancora una volta lo spartitore dei denari, degli zinzi. No, sbaglio. Allora, passo la parola a Deborah. Vai, Deborah. Allora, una notizia che riguarda l'ambiente, da Strill, la testata giornalistica. L'ambiente che conta, anche UNICAL dice sì. L'Università degli Studi della Calabria ha siglato lo scorso mercoledì 2 maggio, nella sala del Consiglio del Rettorato, il progetto Carbon Footprint, a sottoscrivere questa alleanza tra l'Istituto Calabro, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare. Questo accordo permetterà il monitoraggio con strumenti e tecniche molto sofisticate dall'emissione totale del gas serra prodotto e successivamente di procedere alla riduzione delle componenti inquinanti. A Regina qui voleva intervenire. No, giusto una precisazione, io sono contenta di queste iniziative molto importanti sull'ambiente, però dico io, no? Il Ministero, con tutte le, diciamo, con tutte le emissioni di CO2 provocate da industria, proprio all'UNICAL viene a controllare quanta CO2 è. Io non lo so, Samuele, tu vuoi dire qualcosa? Sì, io vorrei dire che se c'è un controllo all'università io devo andare, non posso essere all'università perché anche io produco CO2, quindi scusate, mi tiro fuori dall'università in questo caso. E non respirare mai più. Deborah. Allora, la prossima notizia invece riguarda le lezioni. A quanto pare c'è stato qualche episodio un pochettino così curioso nel calabrese. In particolare a Catanzaro, scusa Peppe, ma questa è dalle parti vostre. Allora, il primo episodio è che la commissione elettorale ha verificato che dall'esame dei verbali, diciamo, del seggio numero 85 risulta la presenza di una scheda in più rispetto al numero dei votanti. Ci sono delle indagini in corso, a quanto pare, su questa cosa qua. Se stanno verificando se c'è stato un errore materiale o qualcosa di diverso, o un'apparizione, o si sono moltiplicate le schede, diciamo così, in maniera... L'episodio 2, invece, riguarda ci sono due indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, Peppe, su presunti episodi di compravendita dei voti per le elezioni comunali. Uno dei due è un consigliere comunale che risulta eletto in base ai voti fin qui, diciamo, scrutinati in una lista che ha sostenuto la candidatura al sindaco di Sergio Abramo, quindi del centrodestra. L'inchiesta è nata sulla base di un'informativa della Digos, secondo quanto si è appreso dagli investigatori che due persone già note alle forze dell'ordine per reati connessi, diciamo, alla droga e cose del genere, che all'esterno dei seggi nel rione Siano avrebbero messo in atto operazioni di compravendita di voti in favore del candidato al consiglio comunale che poi è stato eletto. Ma questo voglio dire, possiamo, giusto, queste due curiosità delle vicende calabresi. Passando avanti, ci spostiamo invece sull'ambientalismo. dal sito, diciamo, no carbone, no centrale a carbone saline ioniche, c'è un comunicato. A quanto pare il movimento no carbone interviene nell'assemblea della Repower, quindi interviene, sono arrivati fino alla Repower. La voce dell'area, diciamo, del basso Ionio Regino, le ragioni del movimento che si pone alla costruzione della centrale, che si oppone alla costruzione della centrale a carbone, sono state portate fin dentro l'assemblea generale della Repower, quindi nella Tana dei Lupi, che si è tenuta oggi, cioè oggi, quanto abbiamo oggi? Ah, perfetto, oggi 9 maggio 2012 in Svizzera. A prendere la parola, diciamo, nell'importante assemblea è stato uno degli attivisti contro la centrale a carbone, è uno dei più impegnati, un amico, diciamo, che conosciamo, Paolo, fa parte del coordinamento delle associazioni dell'area, diciamo, di Basso Ionio. Il giovane, quanto pare, no? Una strategia che ha adoperato, diciamo, il movimento no carbone nel basso Ionio, quanto pare hanno acquistato una quota di azioni della società e praticamente così riescono a fare battaglia anche dall'interno, anche se è opinabile questa scelta qui sulla battaglia, perché non so quanto polso si possa avere, insomma, se sto andando a parlare. Un voto contro, o ci compriamo tutta la società e allora decidiamo di non fare la centrale, però a quanto pare i soldi sono, diciamo così, scarseggiano, altrimenti non ci sarebbero di questi problemi. Allora, ci spostiamo sempre sul... Anzi, Peppe, tu che dici se facciamo uno stacco, visto che le altre notizie sono un po' lunghette? Fai tu, vai col pezzo. The night approaches, after dark you have ecco qui, ritornati alla rassegna stampa. Sempre per quanto riguarda la questione ambientale, ci spostiamo nel parco della Sila. C'è un comunicato che viene, diciamo, dal basso, da un movimento che è contro le centrali a biomasse. Quindi la notizia l'accogliamo dal Corriere della Calabria. I movimenti ambientalisti denunciano la scarsa sensibilità della politica nei confronti dell'area protetta. Ci sono delle contraddizioni dell'insensibilità e scarsa lungimiranza. In sintesi, sono queste le accuse che i comitati contro la realizzazione delle centrali a biomasse di Panettieri e Sorbo, il forum ambientalista, diciamo, della Calabria, e il forum del Reventino, muovono alla politica locale colpevole di non saper valorizzare la risorsa, diciamo, del parco della Sila. A quanto pare c'è stata una notizia: lo scorso 27 marzo l'area protetta calabrese è stata inserita nella lista ufficiale per divenire patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Gli ambientalisti però denunciano che, mentre da un lato, cioè, mentre, diciamo, in un altro luogo una notizia del genere metterebbe in movimento una moltitudine di iniziative da parte delle varie amministrazioni per sostenere questa proposta, quindi per le evidenti ricadute in termini di ricambio turistico, in Calabria invece non solo questa notizia passa sotto banco, quindi tutto tace, ma si ci adopera attivamente per farla bocciare subito. Lo dimostrano semplicemente le proposte di costruzione sul territorio della Sila e nei dintorni del Parco Nazionale di due grosse centrali a biomasse per la produzione di energia elettrica. Questi impianti, spiegano appunto gli ambientalisti, funzionano come degli inceneritori e la loro realizzazione implica distruzione del patrimonio boschivo ed aggravamento del dissesto idrologico, inquinamento ambientale ed aumento esponenziale di malattie respiratorie e di tumori, accrescimento a dismisura del traffico pesante, svalutazione delle produzioni agricole di qualità, crollo dei flussi turistici, ci sono un sacco di conseguenze sulla perdita di molti posti di lavoro, diciamo, di lavoro pulito, cioè preziosissimi in una regione come la nostra. Quindi enorme consumo di acqua, così come è successo nel Crotonese e come ha denunciato la Commissione Antimafia, presenza di interessi diretti delle cosche mafiose. Quindi una scelta che andrebbe a favorire, denunciano sempre gli ambientalisti, speculazioni da parte di società senza scrupoli che pensano solo al loro profitto e a raggiungerlo non pensando, quindi infischiandone di tutte le critiche e le criticità che gravano sul territorio e i suoi abitanti, ovviamente. Dunque, questa notizia è stata abbastanza lunga, ma io ci tenevo a dirla tutta perché è abbastanza significativa. Adesso do la parola per l'ultima notizia a Deborah. Ecco a te, Deborah. Allora, dulcis in fundo, l'ultima notizia viene da Calabria Ora, la marcia dei migranti. Hanno percorso 10 chilometri per ricevere ascolto da chi può restituirgli la loro libertà e soprattutto la dignità di essere umano. Il desiderio quindi dei 154 ospiti del centro di accoglienza richiedenti asilo di Rogliano è quello di ricevere il permesso di soggiorno con cui potranno ricominciare a vivere, a lavorare e a spedire così i soldi a casa. Ieri mattina quindi hanno deciso di non sottostare più ai ricatti, per come racconteranno in seguito i protagonisti di questa storia, e raggiungere dal centro di accoglienza di Contrada Manche e la prefettura di Cosenza per chiedere di essere ricevuti dal prefetto Cannizzaro. Il viaggio della speranza di migranti provenienti dalla Nigeria, dal Mali, dal Ghana e dal Senegal, che non hanno più paura di denunciare come vivono all'interno del centro rolianese e soprattutto sono stanchi di attendere da troppo tempo, circa 3 mesi, la decisione della Commissione per il rilascio di un documento che li riconosca come esseri umani. Quindi raccontano di dormire in camere anche di 8-9 posti, non hanno il diritto all'interprete e se si ammalano di una qualsiasi malattia vengono curati sempre con la stessa medicina. Accusano inoltre la cooperativa che li gestisce che per le ore di lavoro svolte all'interno della struttura, invece di ricevere 2,50 euro come pattuito, gli viene dato 1 euro sotto forma di ticket da spendere all'interno sempre dello shop di questo centro di accoglienza, in cioccolate e caramelle. le porzioni di cibo quindi sono scarse e si mangia sempre la stessa roba, pasta, riso e pollo, la mattina pane e latte, non ci sono vestiti, ma la cosa più grave è che vengono ricattati per rimanere all'interno del campo e non possono quindi uscire. Si chiude qui la notizia. Ok, a quanto pare qui abbiamo finito. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi risalutiamo. Ciao. Ciao. E Peppe, a te la regia. Quando vuoi, Peppe, quando vuoi, perché noi siamo sempre pronti e sempre scattanti sulla notizia, sulla cresta dell'onda. Ricordiamo che questo era, non l'avevano sentito mai, il gesto plastico fluido dinamico del grande Peppe Lounge, il tecnico alla regia di Fuori Onda di Banda Armata, che è la trasmissione che va in onda su Fuori Onda Radio il mercoledì alle 18.30 e in replica il venerdì su Radio Giroma, che ha un canale che è 105.7. E andremo il venerdì alle 18 17 meno un punto, signor Leta. E ricordiamo che inoltre andremo in replica su Radio Transizione di Fase il questa la so martedì alle 20.30. Martedì alle 20, meno due punti, signor Leta. E con questo punteggio che ci riporta alle dinamiche del crocetta più, crocetta meno, dei punti, della raccolta punti, andiamo a passare la parola a Gustavo. Quindi la prima crocetta la mettiamo a Sarkozy, crocetta meno. No, e praticamente noi abbiamo avuto una cosa strana che si chiamano elezioni. Ultimamente ci sono elezioni politiche in Grecia, elezioni politiche in Francia. Bene o male noi dobbiamo considerarle queste cose, perché come ho trovato su un sito internet di quelli dei comunisti là, insomma, si dice che le elezioni sono il termometro della crisi, non certo la sua soluzione. Quindi però noi come termometro, insomma, vediamo questo termometro che temperatura misura, e misura una temperatura abbastanza strana. Ma prima di entrare nel pratico della questione elettorale, vogliamo fare vogliamo vedere com'è messa la situazione europea in generale. Oggi ci troviamo delle dichiarazioni del signor Draghi che fanno accapponare i capponi, sinceramente. Cioè, Draghi dice, cioè dopo, cioè ricordate tutti quanti, miei cari ascoltatori e mie care ascoltatrici, ma soprattutto mie care ascoltatrici, voi ricorderete che, no? Draghi mi ha mandato con Trichet la lettera, Trichet, come si dice? Trichet, vale. Ecco, noi abbiamo l'esperto linguologo qua. Ecco. Quello che lui dice, Draghi, oggi, quello che al momento mi è maggiormente presente è avere un patto per la crescita. Anche perché il risanamento dei conti, così come lo stanno conducendo Italia e Spagna, peggiora la recessione. Ma ce l'ha detto tu, ce l'ha detto come l'avevano fatto, non mi sbaglio. Allora hanno seguito alla lettera, voglio dire, le indicazioni della lettera di Trichet e di Draghi. Però ancora, no, non hanno fatto abbastanza. Noi lo dicevamo che era un minchione, no? Cioè noi lo dicevamo. Dall'altra parte, insomma, c'è questa Angela Merkel un po' che si sente un po' da sola, un po' ammazzupita, se vogliamo, perché il suo amico Sarkozy se n'è fuggito via con Carla. Comunque, oltre a questo, c'è quindi le dichiarazioni di Draghi, abbiamo un altro termine che è entrato, diciamo, dalla finestra, che però dovremmo imparare a conoscere, che è LTRO, il TRO, che è diverso da litro, ma si chiama LTRO, sarebbe l'acronimo di Long Term Refinancing Operation. Long Term Refinancing Operation, ovvero sia rifinanziamento di lungo termine, operazione di rifinanziamento di lungo termine, ovvero sia i soldi che l'Unione Europea, la BCE in particolar modo, ha regalato a tassi agevolatissimi alle banche in due tranche per un totale di 1.000 miliardi di euro. Cioè, mica chicche, mica coccole, dire. Tra l'altro è interessante comprendere il fatto che questi soldi sono stati dati non solo a fondi bassissimi, ma con delle richieste nulle, cioè di continuare la propria attività come se nulla fosse. Invece i soldi che sono stati dati alla Grecia, e non solo, sono stati dati, però sicuramente in Grecia la situazione è più evidente, sono stati dati sotto capestro, nel senso che la Grecia ha dovuto privatizzare in blocco il sistema delle proprietà pubbliche, ha dovuto privatizzare anche lo stesso porto del Pireo, per dirne una. Ha dovuto licenziare migliaia e migliaia di dipendenti pubblici, ha dovuto tagliare il salario medio dei giovani, e questo non è un dettaglio, ha dovuto far salire la disoccupazione giovanile. In Grecia è salita a quasi uno su due giovani oggi è disoccupato nel paese ellenico, ci sono stati 1700 suicidi dall'inizio della crisi, che non sono poco, causato dalle difficoltà economiche nel quale il paese è caduto, e dulcis in fundo ha dovuto addirittura, la Grecia ad oggi non ha neanche più soldi per pagare le medicine per gli ospedali. E in questo contesto tetro, nefasto e terrificante di macelleria sociale, più che altro, sono subentrate le elezioni. Elezioni che hanno visto prima di arrivare a quello che è il nostro, diciamo, cavallo di battaglia, io volevo dire altri due nuovi termini, che sono il fiscal compact, dopo il CD, il CF, il compact fisc. A gennaio del 2013 comunque andrà in vigore, basteranno 12 ratifiche nazionali su 25, cioè la minoranza qualificata sarebbe, diciamo così, ed è una dimensione che ci darà, costringerà tutti i paesi europei a rientrare nel margine dello 0,5%, ovvero sia il deficit tra il rapporto tra deficit e PIL non dovrà superare mai lo 0,5%. Un livello che appare irraggiungibile, si legge di qua e di là, per molti paesi dell'Eurozona. Infatti pensiamo al 150% verso cui punta la Grecia di oggi e al 120% italiano, voglio dire, molto interessante. E dall'altra parte invece l'altro, dopo il compact fisc, c'è il compact grow, di cui non si sa niente. Cioè, prima c'è il rigore fiscale, che è quello, la politica di lacrime e sangue perpetrata anche soprattutto dalla nostra Germania, però diciamo pochi tutti quanti. E poi ci dovrebbe essere la seconda fase, detta, di cui si fanno portatori i millantatori governi di centrosinistra, come il nuovo neoeletto Hollande, il trattore New Holland, che dovrebbe essere la fase B, ovvero sia la fase della crescita. Mo, andando al succo, e poi vi lasciamo per le considerazioni politiche dopo, la situazione oggi è questa. La situazione è che in Francia abbiamo una situazione abbastanza normale, tra virgolette. È un'alternanza semplice, In tutti i paesi nei quali sono subentrate delle elezioni durante la crisi c'è stata la sconfitta del gruppo di potere. Quindi la Francia, ma non è un solo. In Spagna Zapatero è caduto e sono subentrati i popolari. In Portogallo sono caduti il centrodestra e è arrivato il centrosinistra, che tra l'altro, secondo provvedimento che ha fatto il centrosinistra portoghese, è quello di dire che la TAV non si poteva fare. Questo è giusto ed era inutile, questo giusto piccolo appunto. Quindi la Francia entra in una dinamica di alternanza comune e normale, no? Invece, se vogliamo dire, in Grecia c'è una dinamica di alternanza composta. Nel senso, è una cosa un po' più complessa che magari sviscereremo meglio dopo la pubblicità. Vai Peppe Lange, facci sognare con un pezzo, La Grange. Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm on. Ecco, qui ci siamo, i giudici da dopo sfumano in sottosfondo come qualcuno. Io sì, effettivamente. E andiamo, diciamo, alla ciccia della situazione, le elezioni politiche in Greca. C'è un gran vociare di queste elezioni, quindi ci sembra corretto, diciamo, fare un po' di chiarezza, perlomeno. Il che, detto da me, mi sembra un po' strano, però mi sembra che ce l'ho. Mi sembra che questa ce l'ho. Allora, abbiamo un po' questo panorama, diciamo così. Che Nea Democratia e PASOK, che sono, diciamo, i principali partiti di centrodestra e centrosinistra in una parte e dell'altra, insomma così, socialisti e sinistra. PASOK sono i socialisti e Nea Democratia invece è il partito di destra. Nea Democratia è stato al governo precedentemente, poi è subentrato il PASOK, poi il ministro Papandreou si è dimesso ed è subentrato il governo dei tecnici con un banchiere, Papademos, subentrato 2 giorni dopo Monti. E questi qua sono al 37%, tutti quanti, insomma, contro il 77,4% del 2009, insieme loro facevano il 77,4%, oggi 37%. La sinistra di Siurizza, che sarebbe, diciamo, la nostra rifondazione comunista, sostanzialmente, un po' attenuata, sì. Al 16,78%, 52 deputati. La destra nazionalista dei greci indipendenti al 10,6%, e questa è una cosa interessante, e poi i comunisti KKE, che sarebbero stalinisti, l'8,48%. Detto ciò, la situazione in Grecia è anche, diciamo, ci sono questi scampoli, ci sono anche da altre parti, si leggono, e fa riflettere su una mancanza sostanziale che c'è a sinistra in qualche modo. Nel senso che vediamo che c'è grande sfoggio di populismo, eccetera. Quindi in questo ci hanno sempre navigato, diciamo, le componenti più a destra del panorama. Pensiamo che è notizia di oggi che alla conferenza stampa del, come si legge proprio in greco, Chryssi Avgi, che sarebbe il gruppo di estrema destra, che è sostanzialmente nazionalista, fascistoide, alla conferenza sono entrati, è entrato l'ex generale, si è messo sugli attenti, eccetera, però ha fatto alzare tutti i giornalisti in segno di onore, minacciando: arriveremo al Parlamento dentro e fuori, eccetera, eccetera. Insomma, c'è un po' una cosa interessante che si sta muovendo. Alcuni, diciamo, millantano arie di anni 30, di anni 20, questi contrasti forti. Ma sicuramente la situazione greca, questo partito, Alba Dorata, poi in italiano, è un partito di matrice fascistoide che emerge con una linea politica sicuramente orientata alla destra più estrema. E anche sulla lettura dei colonnelli erano delle posizioni molto particolari, lettura dei colonnelli che, diciamo, che tanto bene alla Grecia non ha fatto. E l'altro canto però abbiamo appunto una sinistra frastagliata e senza un'identità precisa. Il KKE nel corso delle manifestazioni e durante la protesta per la crisi si è sempre contraddistinto per una sua identità che non si è mai voluta prodigare verso l'esterno. Il KKE faceva delle manifestazioni separate con i suoi militanti, e quando ci furono i problemi più seri, quelli di un attacco al Parlamento portato dai manifestanti, KKE fece un cordone di sicurezza assieme alla polizia, una cosa gravissima, perché ha minato fondamentalmente una protesta popolare giusta e necessaria contro delle misure massacranti che abbiamo già ricordato prima. Di conseguenza, quindi, la situazione è questa. I vecchi baluardi del governo tecnico, cioè centrodestra e centrosinistra, non hanno la maggioranza per fare un governo, perché si fermano a 150 seggi, la maggioranza nel Parlamento greco che è di 300 seggi e quindi 151. Perciò non possono fare un governo, non si può fare il governo. D'altro canto, però, infatti, il Presidente della Repubblica, di cui mi sfugge il nome adesso, ha dato a Alexis Tsipras l'incarico di formare il nuovo governo. Alexis Tsipras è il portavoce di Syriza, però Syriza ha fatto la sua fortuna elettorale sull'opposizione al governo tecnico e alle misure di austerity. Quindi fare un governo significherebbe suicidarsi, ammesso che poi ne abbia concretamente i numeri, perché sicuramente un governo col PASOK non può farlo, a destra, un governo a sinistra col KKE, impossibile per i numeri, ma anche per, la, per l'atteggiamento del KKE, che appunto si è sempre rivolto con una retorica identitaria paurosa, che ha, come dire, noi siamo i veri, puri sacerdoti dello stalinismo e voi siete soltanto dei piccoli manifestanti. Comunque penso che la situazione greca in qualche modo sia chiara, ma se vogliamo allontanarci un po', si vede, è evidente che comunque la lettura che possiamo fare di questa tornata elettorale è un sostanziale, cioè i popoli in qualche modo hanno bocciato questa, queste misure, questa tendenza, ma ci vuole il CF, il Compact Fisc sostanzialmente, lo 0,5% eccetera eccetera. La linea dettata da BCE, da Angela Merkel, da Draghi, insomma da tutti i nostri, da Monti, anche da tutti quanti. Il punto è che questo malcontento si sta raccogliendo, ma si sta raccogliendo sul fronte opposto. No, ma si sta semplicemente disperdendo, perché una parte va nella destra più identitaria, che raccoglie un voto di protesta sostanzialmente, con nessuna progettualità. Se pensiamo che partiti di destra che erano nel Parlamento precedente e in cui è confluito gran parte dell'elettorato di destra, confluito poi in questo gruppo dell'Alba Dorata, parteggiavano per il governo tecnico per fermare la Grecia dal pericolo rosso. Quindi l'atteggiamento dei fascistoidi, di questi gruppi fascisti di destra, comunque possiamo dire di destra, in merito alle riforme, alle misure europee, è quanto mai fumoso, perché è più quasi propaganda che non poi appoggio vero, come poi si è verificato nei fatti. E d'altro canto, però, a sinistra non c'è un'alternativa, come dire, unitaria, coerente e anche coerentemente anticapitalista. In sostanza diciamo che è proprio questo quello che manca e che bisogna cercare di quagliare da qui a poco, nel senso che il collasso è vicino, sembra quanto mai vicino, almeno l'impressione che si ha è questa. Quindi bisogna lavorare, bisogna cercare di capire quali sono i modi per intercettare il più possibile il malcontento e viverci dentro, capire come funziona. E mettere di Andrea. Vai, sono la romanticheria. La romantica. Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema, e al loro Dio goloso non credere mai. E forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente, possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta, uccisi uno smoking e glielo rubai, e al Dio della scala non credere mai. We'll be right back. poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai. Ecco che rientriamo sulla cresta dell'onda web dopo il gesto plastico fluido dinamico del grande Pepe Lounge che ci permette di esplodere nello spazio più profondo. Noi tornando a bomba, parlando di una delle inchieste che stanno piovendo in Calabria e soprattutto che coinvolgono anche il nostro amatissimo consiglio regionale. Una di queste inchieste coinvolge la Siram, una tale aziendina che ha presso il nostro consiglio regionale diversi appalti. Diversi appalti per cose che comprendono bei milioncini di euro riguardo l'energia elettrica e la gestione di alcuni impianti, il che non sarebbe niente di speciale se non fosse altro che questa azienda arrivano anche è un'azienda che ha sede a Milano e che è arrivata a noi tramite il consiglio, un appoggio esterno, chiamiamolo così, di Belsito, il tesoriere della Lega, e non solo, anche attraverso un suggerimento da parte di alcuni parlamentari vicini alla Lega Nord. Questo ci porta di fronte ad un problema che in Calabria ricorre più di una volta. Basta notare che in alcuni comuni del calabrese, in particolar modo mi riferisco al merito Porto Salvo, la Lega Nord è il terzo partito per numero di voti. E si lascia davanti semplicemente il PD e il PDL. Il che... Sì, Merito Porto Salvo è Lombardia, è provincia di Como. Sì, infatti, tutti gli industriali comaschi vivono a Merito Porto Salvo. E il che è... secondo le indagini che stanno susseguendo rispetto anche a queste dinamiche, ha fatto ben presagire che alcuni nomi, che noi non vi ripeteremo sicuramente in questa sede perché abbiamo tanta paura, alcuni di questi personaggi che stanno dietro al voto di scambio, soprattutto in queste zone, sono affiliati con una delle cosche più importanti della zona. Il che non è un caso isolato, se pensiamo che andando indietro nel tempo il fenomeno della Lega è stato storicamente legato alla questione legata alla mafia e non solo. Basti pensare che andando indietro di inchiesta in inchiesta, secondo una serie di liane che ci portano a cercare di scoprire un po' delle verità della nostra regione, una delle inchieste che è rimasta, come dire, a rallentatore, col silenziatore, riguarda un incontro che c'è stato alla Lamezia Terme nel lontano 1993, mentre i partiti politici erano in crisi e mentre la mafia per sua stessa missione voleva punire i politici che non riuscivano più a rappresentarla, inizia a lanciare un progetto di autorappresentanza della mafia. Giustamente la mafia vuole avere anche lei il suo partito. O no, Claudio, tu lo vorresti il tuo partito? Sì, vorrei anche il mio partito. Costruiremo anche il partito di Claudio nel frattempo. Detto questo, la mafia è storicamente legata anche ai movimenti indipendentisti, li lancia per questo anche l'idea di fare nascere in tutte le regioni del sud una serie di leghe autonomiste che le permettano di arrivare a far ballare le sedie di quelli che fino a ieri erano stati i suoi principali finanziatori, che adesso iniziavano ad avere una politica diversa. Questo fa sì che in questa riunione di cui accennavamo prima ci vengono a sedersi i principali esponenti di tutte le leghe meridionali che si vengono a creare, salvo che ci sono delle piccole come dire, discrepanze. La maggior parte di queste leghe, di questi piccoli partiti, piccoli movimenti che vengono a crearsi, hanno sede legale in una particolare, e qui iniziamo a svelare un po' di cosette, in un particolare studio dall'avvocato Menicacci, sede dell'Incontinental Export Company. Non fosse altro che questa è la sede della Lega Pugliese, la Lega Marchigiana, la Lega Molisana, la Lega Meridionale del Sud e la Lega degli Italiani. Questo studio di avvocati è legato a doppio filo con Stefano Delle Chiaie, ex terrorista nero, un personaggio tutto da raccomandare, che si è reso responsabile di diversi passaggi anche della strategia della tensione di cui abbiamo una diapositiva. Per continuare a raccontare il fatto, dopo l'importante diapositiva, c'è da ricordare che a quella riunione ci sono un paio di persone che andarono poi a incontrare a Roma tale Orsoni, un principe legato a doppio filo con la massoneria, amico di Licio Gelli e non solo, amico anche di tale Dell'Utri. Questo si impegnò da subito a lanciare una lega federale italiana legata a che avrebbe dovuto essere nei disegni di questo piano massonico mafioso il legante tra le leghe meridionali e la Lega Nord. il legame che c'è tra questi due fenomeni diventa poi lampante in alcune delle ricostruzioni che vengono fatte durante questa inchiesta Breakfast, che coinvolge la Lega e che lega la Procura di Milano alla Procura di Reggio, ovvero industriali che iniziano a entrare in crisi, per rilanciare la loro occupazione stringono rapporti con cercano di stringere rapporti con la massoneria, che da noi in Calabria è legata al terrorismo nero a doppio filo, basti guardare nella provincia di Reggio, e quindi anche con la mafia. E basti pensare che nelle diverse inchieste ci sono diversi personaggioni che sono accusati di, a vario titolo, di riciclaggio, eccetera, eccetera. La chiusura, però, ve la lasciamo dopo il prossimo pezzo. Vai, Pepe. Del Club Paris, as, lo tuyo no es el wak, wak, wak, wak, wak. Cierran los bares, ¿por dónde van? Pero estás jodiendo al personal. Debiste poner en Río ese restaurante que te quitó el sueño. Sos un aristócrata de cotillón. Eccoci tornati a parlare di Cosa Nostra e di quello che è il rapporto con le istituzioni. Leggiamo dal racconto di Tullio Cannella, un tale tutto raccomandabile, di cui poi vi diremo. Sin dal 1990-91 c'è un interesse di Cosa Nostra a creare movimenti separatisti. Erano sorti in tutto il sud movimenti con varie denominazioni, ma tutti con ispirazioni e finalità separatiste. Questi movimenti avevano una contrapposizione di facciata con la Lega Nord, ma nella sostanza ne condividevano obiettivi. Successivamente sorgono a Catania il Movimento Sicilia Libertaria e in altri luoghi del sud movimenti analoghi. Tutte queste iniziative nascevano dalla volontà di Cosa Nostra di punire i politici una volta amici, preparando il terreno a movimenti politici che vedessero il coinvolgimento diretto di uomini della criminalità organizzata, o meglio legati alla criminalità ma presentabili. Qual è il fine di tutto questo? È che far sedere allo stesso tavolo esponenti della massoneria, faccendieri che finanziavano la Lega Nord e uomini della 'Ndrangheta, curando l'accumulo di capitali illeciti e la loro collocazione all'estero. In questo fa effetto, appunto, come dicevamo prima, i collegamenti diretti con gli esponenti di spicco della massoneria. Come abbiamo detto, il caro Orsini, il principe Orsini, che era legato a doppio filo con Licio Gelli e Stefano Della Chiaia, di cui abbiamo già detto. Nella riprova anche quanto avviene documentato sempre dalla DIA, che riguarda Licio Gelli e Stefano Della Chiaia. Questi sono stati visti da un vigile urbano presso il comune di Vibo Valentia, che infatti ha riferito di aver personalmente notato nell'agosto dell'89 in poi il carissimo Licio Gelli, di cui anche il nostro collettivo prende il nome, il carissimo Licio Gelli frequentare a Vibo Valentia insieme al terrorista nero Della Chiaia la sede di una loggia massonica locale. Questo è portato a chiedere alla Lega Nord, fino a un certo punto, un segnale chiaro di appartenenza, un segnale chiaro per iniziare a intessere delle relazioni definitive. E il segnale arriva nel 1999 con le dichiarazioni di Gianfranco Miglio, all'epoca ascoltatissimo, come dire, ideologo della bellissima Lega Nord. In una storica intervista, infatti, egli afferma che l'assegnazione della Sicilia l'assegnazione della Sicilia alla mafia sostanzialmente si poteva sostanziare dicendo: infatti io sono per il mantenimento anche della mafia della 'Ndrangheta. Il sud deve darsi uno statuto poggiante sulle personalità del comando. Che cos'è la mafia? Potere personale spinto fino al delitto. Insomma, bisogna partire dal concetto che alcune manifestazioni tipiche del sud hanno bisogno di essere costituzionalizzate. Cosa ne pensa Matteo Alella? Alcune manifestazioni del sud hanno bisogno di essere costituzionalizzate in riferimento alla mafia. Ho parola di Gianfranco Miglio. No, Gianfranco Miglio proponeva due costituzioni. La cosa divertente è stata proprio questa. Lo Stato italiano che si spacca è la costituzione del sud, che deve andare a governare i meridionali in quanto portatori di malattia. Poi questo dirà Gianfranco Miglio in altre occasioni. Questo è l'ennesima riprova di quanto Gianfranco Miglio abbia visto giusto o sbaglio. Certamente, noi abbiamo delle enormi e tante malattie, infatti io faccio ammenda, ma io sono nato a Castrovillari, Castrovillari non è al nord, scusami. Al nord di quale sud? Senti, solo il fatto che tu sei di Vicenza, non deve... non può parlare dei legami fra Lega e mafia uno che è di Vicenza. Io pongo una mozione ai nostri ascoltatori numerosissimi. Togliamo il microfono a Matteo Aletta, perché questo non è, gli togliamo la parola perché è andato dal di fuori dei punti programmatici di questa trasmissione. Io creo un punto politico di coerenza intellettuale. Matteo Letta verrà prossimamente decapitato sul luogo. Tornando a noi, cosa dice Gianfranco Miglio a tutti gli spettatori della mafia che cercavano un parente o una corrispondenza politica, dicendo sì, noi siamo possiamo essere il vostro amichetto del cuore, sostanzialmente. Questo, alla luce di questo, degli scenari che abbiamo provato brevemente a tratteggiare, c'è anche da rivedere appunto quello che avviene per più di una volta all'interno del Consiglio regionale. E detto questo, detto ciò, no? Allora è il caso che noi vi lasciamo con la nostra magnifica sigla che vi farà riflettere e vi rilanciamo alla prossima puntata in cui continueremo a trattare questo argomento. Sigla? Oggi chiudiamo con una sigla diversa, dato che è il 9 maggio. Ciao. Eccomi qua, bandito atteso ad un approdo senza età, nato tra le faide di una terra violentata, frammenti spenti nell'insana fedeltà di galleggiare su una vita barattata, nell'incoscienza affondano mercanti della vita, fabbricanti della morte, danni nel silenzio di chi affonda la mia sorte. Il viaggio scuro segue il mio compagno ovunque vada, c'è da altrui in questa notte amara di terrore, mi prendo la mia strada. Vuoti stenti di brandelli di follia, dalla prigione di una fede rivoltante, ma un vento fradicio di fame ed agonia bacia le mani di una quiete latitante. Io la mia sorte incontrerò, brigante della terra del contrario. Padri dell'indifferenza, che mi indicate onore in una vita d'apparenza, vengano signore ad affondare la mia sorte per timore della mia coscienza.